Ci è una parola nella Bibbia che per la nostra cultura occidentale ci porta a interpretare erroneamente il pensiero di Dio. Questa parola è mistero o misteri. Per noi il senso comune della parola si riferisce a tutto ciò che non si può intendere, penetrare e spiegare chiaramente, così come del resto lo definisce la religione cattolica. I misteri sono verità superiori alla ragione, che noi dobbiamo credere quantunque non le possiamo comprendere. Catechismo maggiore promulgato da San Pio X. Ma il senso inteso nelle scritture ha il significato di una verità soprannaturale che non può essere conosciuta mediante l'intelligenza umana, ma che, una volta conosciuta per rivelazione, può essere compresa dalla mente dell'uomo. Possiamo quindi dire che la parola mistero significhi una verità soprannaturale, comunicata all'uomo per mezzo della rivelazione divina e proposta per essere creduta come oggetto di fede. E in questo modo che gli scrittori biblici usano il termine mistero. L'Apostolo Paolo fa un largo uso di tale termine e ne vediamo una dimostrazione nella lettera che scrive ai credenti di Efeso. Per questa ragione io, Paolo, sono il prigioniero di Cristo Gesù per voi gentili, seppure avete sentito della dispensazione della grazia di Dio, che mi è stata affidata per voi, come per rivelazione egli mi ha fatto conoscere il mistero, di cui prima ne scrissi in breve. Nel leggere questo, voi potete capire quale sia la mia intelligenza del mistero di Cristo, che non fu fatto conoscere nelle altre età ai figli degli uomini, come ora è stato rivelato ai santi apostoli e ai suoi profeti per mezzo dello Spirito, affinché i gentili siano coeredi dello stesso corpo e partecipi della sua promessa in Cristo mediante l'Evangelo, di cui sono stato fatto ministro, secondo il dono della grazia di Dio che mi è stata data in virtù della sua potenza. Efesini 3:1. L'Apostolo Paolo rende noto agli Efesini di essere stato mandato da Dio per far conoscere il mistero di Cristo, una verità che era stata nascosta nei secoli passati, ma che, mediante lo Spirito Santo, ora è fatta conoscere agli apostoli, ai profeti e ad ogni figlio di Dio che ha lo Spirito Santo. Questa verità nascosta riguarda persone non ebree e le quali sono partecipi delle benedizioni di Cristo, assieme al popolo che Dio si è scelto tra i popoli tramite Abramo, Isacco e Giacobbe. Mentre prima di Cristo solo agli israeliti appartenevano l'adozione, la gloria, i patti, la promulgazione della legge, il servizio divino e le promesse, e dai quali sono i padri e dai quali proviene secondo la carne. Il Cristo che è sopra tutte le cose Dio, benedetto in eterno, Romani 10:4-5, ora anche chi non è israelita, è partecipe di tutte le promesse in Cristo. Questo mistero, cioè questa verità, ora è nota a tutti i credenti. Nella parola di Dio, i misteri, cioè quelle verità tenute nascoste che in seguito vengono rivelate, sono vari, e sarebbe veramente una grave mancanza non investigarli. Vi è il mistero del regno dei cieli che Gesù ha annunziato nelle parabole da lui raccontate. In effetti, udendo parlare Gesù in parabole, i discepoli, accostatisi, gli dissero: «Perché parli loro in parabole?» Ed egli, rispondendo, disse loro: «Perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato». Matteo 13:1011. Il regno dei cieli è un termine vago per definire i piani di Dio per la salvezza dell'uomo, piani che possiamo intravedere fin dal giardino dell'Eden, quando Cristo creò Adamo ed Eva. La disubbidienza dei nostri progenitori non ha colto alla sprovvista il Dio Trino, perché prima che i cieli e la terra fossero creati, Cristo era stato già designato come colui che avrebbe riscattato ogni cosa dalla corruzione del peccato e che sarebbe stato manifestato solo quando avrebbe assunto un corpo nel seno della Vergine Maria. 1 Pietro 1.20. Il mistero del regno dei cieli è visibile ogni giorno a colui che è nato di nuovo, perché vi è già entrato e vive, affinché si compia la volontà di Dio sia in cielo che in terra. Da 2000 anni l'Evangelo è predicato ovunque, ma non tutti pongono fede in esso, mettendo in evidenza come la volontà di Dio sia quella che tutti gli uomini siano salvati, ma alcuni, con un atto di libero arbitrio, scelgono di rimanere perduti. la salvezza e la perdizione dell'uomo rimangono sempre aspetti di profonda indagine, anche se due verità rimangono ferme. Dio ama tutti gli uomini senza distinzioni di razza e di cultura, e l'uomo viene invitato a scegliere l'offerta di Dio di una salvezza per grazia mediante un atto di fede. Vi sono alcune persone che pensano di non essere state scelte da Dio, ma questa è un'opinione errata che procede da un'inesatta valutazione del regno di Dio. In merito alla salvezza dell'uomo, Gesù disse: «Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono coloro che entrano per essa. Quanto stretta è invece la porta, e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono coloro che la trovano». Matteo 7:1-14. Tutti gli uomini sono invitati a entrare per la porta stretta, ma pochi sono coloro che la trovano. Dunque molti cercano la vita eterna, ma non tutti la trovano. Questo fa parte del mistero del regno dei cieli. Vi è il mistero dell'impietà che Paolo descrive nella seconda lettera ai Tessalonicesi. Or vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signor nostro Gesù Cristo e al nostro adunamento con Lui, di non lasciarvi subito sconvolgere nella mente, né turbare o da spirito, o da parola o da qualche lettera come se venisse da parte nostra, quasi che il giorno di Cristo sia già venuto. Nessuno vi inganni in alcuna maniera, perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e prima che sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di adorazione, tanto da porsi a sedere nel tempio di Dio come Dio, mettendo in mostra se stesso e proclamando di essere Dio. Non vi ricordate che, quando ero ancora tra voi, vi dicevo queste cose? E ora sapete ciò che lo ritiene, affinché sia manifestato a suo tempo. Il mistero dell'impietà, infatti, è già all'opera, aspettando soltanto che chi lo ritiene al presente sia tolto di mezzo. Allora sarà manifestato quell'empio che il Signore distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà ol apparire della sua venuta. 2 Tessalonicesi 2:18. Che la situazione morale del mondo vada sempre più a rotoli non è una novità, ma le cose in apparenza vanno così diabolicamente bene che nessuno si rende conto che l'ago del veleno ormai è entrato nel corpo della società, e basta un attimo perché l'anticristo, cioè colui che si presenterà come il Messia, prende in mano ogni situazione per sollevare il mondo intero contro il regno dei cieli, come il regno dei cieli era già all'opera fin dalla creazione del mondo senza che nessuno lo sapesse. Così anche il mistero dell'impietà è presente e opera nel cuore degli uomini ribelli accanto al regno dei cieli. Oggi vi è un rinnovato interesse per gli alieni, anche se non è una novità, perché anni addietro sono stati scritti e fatti circolare opuscoli, dove, interpretando scorrettamente alcuni versi del profeta Ezechiele concernenti il carro di fuoco, alcuni assicuravano la visita di visitatori cosmici. Così, mentre l'uomo scruta con fobia il cosmo per trovarvi un'altra forma di vita, e magari di vita intelligente, egli dimentica che un giorno Gesù Cristo tornerà dai cieli con coloro che hanno posto fede in Lui. Allora, a causa del mistero dell'impietà che opera nei cuori ribelli, Cristo Gesù e i credenti saranno ritenuti quegli extra terrestri che il mondo tanto attende. Neanche il ritorno di Cristo, evento così unico e stravolgente, sarà creduto dai malvagi, anche perché il mistero dell'impietà è già all'opera. Altro mistero che la parola di Dio annuncia è quello della pietà. Ne parla l'apostolo Paolo nella sua prima lettera a Timoteo al capitolo 3 e versetto 16. E senza alcun dubbio grande è il mistero della pietà. Dio è stato manifestato in carne, è stato giustificato nello Spirito, è apparso agli angeli, è stato predicato tra i gentili, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria. Paolo definisce il mistero della pietà un grande mistero, cioè una grande verità, che è stata rivelata agli uomini perché grande e sublime è il messaggio in esso contenuto. Il mistero della pietà si riferisce alla persona di Cristo, al suo amore per tutti gli uomini, alla sua incarnazione, alla sua sofferenza, alla sua morte, alla sua resurrezione e glorificazione. L'opera di Cristo viene letta ormai frettolosamente come si legge la vita di un esploratore o la quanto mai burrascosa vita di un poeta, ma pochi si soffermano a considerare cosa veramente ha compiuto il Figlio di Dio. Già affermare che Dio è stato manifestato in carne non può lasciare indifferente nessuno che abbia un poco di intendimento. Se Gesù Cristo non è Dio che ha assunto un corpo umano, possiamo allora rivolgere le orecchie altrove per sentire qualsiasi favola, ma se è vero come è vero che Gesù ha lasciato la gloria e ogni gioia possibile per una persona, allora il solo fatto che Cristo abbia deciso di farsi uomo e vivere come ogni altro essere umano con tutti i suoi limiti e sofferenze, il minimo che si possa fare è quello di ammirarlo e di prestargli la più grande attenzione. Se quando un uomo compie un gesto particolare di solidarietà viene ricordato sui giornali o annunciato per televisione, se è stato istituito anche un premio annuo per la persona più altruista, come mai il gesto di Gesù non è oggetto della massima attenzione? Gli uomini possono compiere gesti di grande altruismo verso i loro simili, ma il gesto altruistico di morire in croce per tutti gli uomini è stato fatto da Figlio di Dio in favore di persone inferiori a lui. Per quanto grande possa essere il sacrificio di una persona a favore del prossimo, non dobbiamo mai dimenticare che questo non è altro se non un dovere che ogni uomo ha verso i suoi simili. Ma Cristo Gesù non aveva il dovere di essere limitato alla condizione di uomo e di soffrire come gli uomini e inoltre di subire una morte ingiusta. Perciò a noi esseri umani non rimane che ringraziarlo e adorarlo per questo grande mistero rivelato. E quando Dio rivela una cosa non lo fa per un gusto personale, ma perché noi uomini possiamo essere coscienti dei grandi misteri di Dio. Chi sono coloro che rispondono positivamente ai misteri di Dio? Gennaio 2007. Pellero.